E allora torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è Silenzio Assordante. Come preannunciato, abbiamo in collegamento un compagno e una compagna da Torino che sono tra i redattori del testo che vi ho poc'anzi parlato. Intanto vediamo se il collegamento è stabilito e se mi sentite bene. Sì. Sentiamo forte e chiaro, ciao a tutti. Perfetto. Ciao a tutti e a tutte. Ciao, grazie, e noi anche vi sentiamo bene. E allora dunque, con voi, come ho detto poc'anzi, volevamo farci una chiacchierata intorno a questo testo che è uscito, un testo pensato a più teste, scritto a più mani a quanto vedo, che si chiama Dietro l'angolo, qualche ipotesi su Covid-19 e sul mondo in cui vivremo, che è stato appunto scritto durante il periodo in cui è esplosa questa pandemia. Io non mi dilungo troppo, così ci facciamo insomma una chiacchierata stile dibattito, e lascio a voi l'onere di insomma un po' introdurre questo testo, e partirei un po' insomma dalle intenzioni e dalle motivazioni che vi hanno spinto anche a farlo. Sì, ecco, come dicevi tu, questo testo nasce a caldo, proprio nel mentre dell'emergenza Covid della primavera scorsa, e seppur con le difficoltà del caso, quindi con una scarsa possibilità di incontrarsi e parlarsi a voce, ci siamo confrontati tra un po' di compagni e abbiamo pensato che insomma il modo che ci sembrava più appropriato per leggere la situazione epocale in cui ci trovavamo era quella di pensare a questa emergenza Covid, a questa emergenza pandemica e alla sua gestione non tanto come a un incidente di percorso inaspettato e imprevedibile all'interno di questa organizzazione sociale capitalistica in cui viviamo, né tantomeno come un complotto o una macchinazione ordita da qualche deus ex machina diabolico, una lettura che accomuna in questo momento tanti, sia a destra che a sinistra, se così vogliamo dire. Ecco, noi ci sembrava più opportuno provare a capire quello che stava succedendo cercando di rintracciare, di vedere i cambiamenti che questa emergenza avrebbe provocato alla luce di dinamiche in atto già da tempo, a cui sicuramente un fatto epocale come questa emergenza qui avrebbe dato degli grossi scossoni, avrebbe fatto fare dei salti in avanti, ma che potrebbe anche a cui potrebbe far prendere anche ecco delle deviazioni e quindi far prendere delle strade inaspettate. Questa era un po' quindi l'idea di fondo. L'idea di stamparlo invece, anche venendo, siamo stati molto contenti di questa possibilità di chiacchierarne, veniva proprio dalla necessità di confrontarci, cioè abbiamo deciso di metterlo alle stampe, questo testo uscito sul blog di Macerie, perché la ritenevamo una occasione importante per poterci confrontare magari con compagni e con uomini e donne di altre città su questa situazione in cui siamo tuttora immersi, a partire dalla considerazione che in genere quando si parte a ragionare, si parte a riflettere a partire da qualcosa di scritto nero su bianco, magari è più facile cercare di essere un po' più precisi nelle riflessioni e nei ragionamenti. Quindi se insomma questa chiacchierata telefonica sarà effettivamente una chiacchierata e non una classica presentazione di un libro, va proprio nella direzione che insomma ci auspichiamo. E questo diciamo ecco, sono le intenzioni che ci siamo preposti nel provare a farci questa chiacchierata, e appunto proprio per questo provando a iniziare un po' a entrare nel merito di alcune questioni, a me effettivamente quello che mi ha colpito di più in senso positivo di queste riflessioni è diciamo un certo equilibrio, chiamiamolo così, nonostante che appunto spesso e giustamente siamo più abituati ad affrontare in maniera, diciamo così, partigiana e giustamente di parte alcuni discorsi, la difficoltà di affrontare determinati temi proprio nel momento in cui emergono, quindi nel momento in cui ce li viviamo, effettivamente si è fatta sentire in questo periodo, e quindi diciamo tentativi del genere vanno proprio nella direzione non appunto di esercitarsi in questa retorica del commento, che pure ne abbiamo vista tanta in questo periodo. Insomma, basti pensare che c'è stata una proliferazione di testi e di articoli e quant'altro su questo tema davvero impressionante, ma quello che ci interessa appunto mettere fare dei ragionamenti e mettere dei pezzetti per appunto che magari possono essere utili a noi compagni e compagne, insomma affrontare le cose per anche con una prospettiva diciamo progettuale anche per il futuro. Io inizierei da una questione che insomma che emerge direttamente dall'introduzione, che inizia con una citazione che ormai si è insomma molto utilizzata e di cui si è parlato tanto. Voi iniziate il testo, tutto il libro inizia con questa frase: è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, che mi sembra insomma uno slogan però abbastanza appunto adeguato per descrivere un po' la situazione che ci troviamo ad affrontare. E poi lungo il testo ci sono tutta una serie di riflessioni che vanno a toccare vari ambiti che sono appunto quelli che questo periodo della pandemia ci hanno fatto magari vedere in maniera un po' più diretta, diciamo. Inizierei da questo dicendo che noi siamo diciamo tra compagni e compagne siamo forse più abituati, come scrivete anche voi mi sembra in un passaggio, a vedere le continuità che ci sono con magari con altri periodi storici o che pur restano tra determinate decisioni anche politiche che vengono prese, e però forse quello che è più difficile da pensare sono quegli elementi proprio di discontinuità e di rottura che magari eventi del genere fanno emergere o fanno vedere meglio. Quindi inizierei da questo diciamo macro tema, poi andiamo magari più nel dettaglio a vedere le cose più nello specifico. Sì, ecco, questa definizione che hai appena citato ci sembrava particolarmente significativa, anche se non ci convinceva fino in fondo, nel senso che ecco, questa frase "più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo" ci sembra evochi uno scenario abbastanza apocalittico, no? Da giorno X in cui la fine del mondo arriverà per il presentarsi di qualche meteorite, come siamo abituati dal film di fantascienza, o qualche avvenimento di questo tipo, e da cui inizierà un conto alla rovescia. E se proprio, come dire, vogliamo rapportarci con una questione così complessa come la fine del mondo, che nessuno sa bene cosa voglia dire, a noi ci sembrava più appropriata un'immagine, come dire, se vuoi anche più cupa e graduale, in cui come dire, il mondo sta finendo, nel senso che piano piano o in maniera a volte più veloce, con un ritmo più sostenuto, come sta mostrando questa emergenza Covid, stanno venendo meno le possibilità per sempre più uomini e donne e per sempre più animali, pezzi, come dire, di quella che viene definita natura, stanno venendo meno le possibilità di accedere alle fonti per sopravvivere. Ecco, se vogliamo parlare di fine del mondo, secondo noi va letta, va guardata con quest'ottica qui, va immaginata come uno scenario di questo tipo. E da questo punto di vista, limitandoci, come dire, alla popolazione umana, evidentemente uno dei tratti salienti di quest'epoca sono gli uomini e le donne di troppo, quelli che venivano un tempo definiti gli inutili al mondo, le eccedenze umane, cioè quelle masse crescenti di uomini e donne che non sono più necessarie a vario titolo a questa organizzazione sociale, di cui questa organizzazione sociale non ha più bisogno per poter funzionare. E ecco, questo è sicuramente un qualcosa che è emerso in maniera molto forte nell'ultimo periodo, e proprio grazie o a causa, diciamo, della pandemia. Ci sono vari passaggi in cui secondo voi, e secondo me questo è un tema molto grande ma molto interessante, in cui, diciamo, i meccanismi di inclusione ed esclusione di cui lo Stato-Nazione, diciamo, si fa carico e comunque su cui ha costruito la propria strategia di governo ormai da decenni, sembrano in qualche senso riconfigurarsi attorno a magari agli stessi problemi, ma che emergono appunto in maniera lievemente diversa o totalmente diversa in alcuni casi. Quindi ecco, vi stimolerei un pochino su questo tema, perché mi sembra che è un po' un filo rosso che attraversa un po' tutti i testi che sono presenti sul libretto. Sì, ripartendo alla questione di cui parlavi prima tu, continuità e discontinuità storica, ecco, ci sembrava appropriato partire da un episodio del passato, la repressione, le leggi contro il vagabondaggio del XVII secolo, che sono state negli ultimi tempi più volte ricacciate sia da scritti e riflessioni di compagni, sia da mezzi più mainstream, no? Riferendosi alle politiche sul decoro urbano, a tutta una serie di misure sicuritarie. Ecco, una profonda discontinuità, e riteniamo che sia stato importante, ecco, riparlare di quelle leggi contro il vagabondaggio anche per dare un senso a quello che sta accadendo, ma una delle grosse discontinuità evidenti tra la situazione attuale e quel periodo storico è il carattere, secondo noi, permanente ormai di questo livello e di queste forme di esclusione o di espulsione, se si vogliono definire così, nel senso che evidentemente oggi, a differenza di allora, non ci sarà una fase economica e produttiva in cui ci sarà una crescita, una domanda crescente di forza lavoro, e in più, come tutti sappiamo benissimo, questo pianeta ormai ha subito una devastazione ambientale talmente vasta e talmente profonda da rendere inabitabili grosse porzioni di territorio, una inabitabilità destinata anche questa purtroppo ad aumentare, è un fatto ormai acclarato e in dubbio, e questo aumenterà notevolmente sempre più la pressione di masse di persone che non avranno un posto dove stare, che si accalcheranno senza poter trovare un'attività da scambiare con una fonte di sostegno, si accalcheranno tendenzialmente attorno ai più grossi centri urbani, nei paesi occidentali o dei vari occidenti ormai presenti nel mondo, e evidentemente questo è un fatto che segna una discontinuità qualitativa rispetto a quello che è avvenuto nel passato, nel senso che non c'è un modo per mettere a profitto o un modo per dar sfogo a questa eccedenza di popolazione. Pensiamo a la colonizzazione di vari continenti, colonizzazione che serviva tra le altre cose anche a risolvere e tranquillizzare quelle che erano delle situazioni interne in cui c'era una forte pressione di uomini e donne che non avevano un posto in Gran Bretagna, in Francia, in quelli che sono diventati poi gli imperi coloniali. Oggi il fenomeno delle migrazioni è proprio opposto, cioè i terreni, un tempo i paesi, un tempo colonizzati, hanno subito un processo di devastazione, di miserimento e un livello di militarizzazione, di gestione interna talmente brutale che ha costretto, che sta costringendo e che, a detta di molti, costringerà sempre più in futuro milioni e milioni di uomini e donne a scappare. e queste persone non torneranno indietro. Assolutamente, e restando sempre su questo tema, a me sembra che uno dei problemi principali nell'organizzazione proprio discorsiva, cioè narrativa, di chi ha dovuto gestire questa pandemia, quindi principalmente gli attori principali sono stati i vari stati nazione e poi i vari organismi extranazionali che si sono dovuti coordinare, anche questo è stato un po' una questione, se non proprio inedita, ma la forza con cui si è presentata è stata abbastanza particolare. Sicuramente uno dei problemi principali, cioè se all'inizio c'è stato anche un balbettio di stato nel dover spiegare questa situazione, ripeto, piuttosto nuova, sicuramente un discorso che manca in maniera totale, tu ne hai fatto l'hai già accennato in vario modo, sono proprio le cause, cioè quello che per quale motivo siamo arrivati a questa pandemia e quindi di conseguenza alla gestione di questa pandemia. Tu hai citato le devastazioni ambientali, adesso non staremo qui a ripercorrere tutto le questioni che ruotano intorno proprio al salto di specie di questo Covid-19, che pure è un argomento importante. Fatto sta che comunque le cause che hanno portato a questa pandemia sono totalmente ascrivibili a questo sistema di produzione e consumo, e di questo non se ne parla affatto. Quindi l'organizzazione discorsiva di Stato è stata questa, è stata un po' quella di farci un po' immaginare che come un fulmine a ciel sereno che è arrivato sulle nostre teste e di cui invece effettivamente, parlando con altri compagni e compagne, probabilmente, come hai detto anche tu all'inizio, questa pandemia nessuno se l'aspettava, però da un punto di vista, e paradossalmente, era forse quello una delle cose più prevedibili visto l'andazzo degli ultimi anni. Sì, sicuramente fai bene a citare una serie di cause naturalmente che ci hanno portato fino a questo punto, ma volendo fare un passo indietro bisogna capire anche di che tipo di cause stiamo parlando, perché tu annoveravi quelle politiche sia nazionali che extranazionali, ma possiamo anche parlare di una vera e propria antropologia del capitalismo, perché all'inizio, quando facevamo riferimento a quella citazione sul mondo, bisogna capire che il mondo non è semplicemente quello fisico che possiamo descrivere come distrutto dalle varie politiche di colonizzazione, anche di vera e propria distruzione del capitalismo, ma il mondo si esamina, soprattutto tra noi compagni, anche in termini di libertà. Per cui quando parliamo di fine del mondo ne parliamo in termini strettamente letterali, ne parliamo in termini accurati anche per quanto riguarda le possibilità di reazione a questa guerra che viene fatta su diversi livelli, alle possibilità di libertà che ci sono oggi nel mondo di poter reagire ad eventi come quello del Covid, che sono veramente limitati purtroppo, e con questo bisogna fare i conti. Quindi quell'insieme di cause non sono semplicemente politiche in termini di decisioni di governi piuttosto di strutture sovranazionali come per esempio l'Unione Europea o il Fondo Monetario Internazionale, ma è una bella rete di rapporti sociali che attraversa tutte queste istituzioni e che va anche notevolmente oltre. Per cui le cause che hanno portato a questa catastrofe, perché noi viviamo nella catastrofe da diverso tempo e i termini in cui la analizziamo non sono semplicemente quelli del coronavirus o dei fatti economici che peggiorano la nostra vita come quello l'ultimo del 2008 o come quello probabilmente che seguirà a questo 2019-2020, ma la catastrofe sono proprio l'inasprimento di tutti quei rapporti sociali in cui una fetta di popolazione rimane schiacciata di fronte a questi, e vanno esaminati quindi non semplicemente nei termini di un certo tipo di conseguenze a un certo decreto del governo o a un altro, ma guardando sul lungo corso quello che è accaduto e, come si diceva all'inizio, riconoscendone delle continuità o delle discontinuità, tenendo conto, e questo secondo me non viene mai esplicitato chiaramente all'interno di questo livello, ma è comunque abbastanza palese che siamo in qualche modo in un momento transitorio, mettiamola così, soprattutto dal punto di vista della riorganizzazione del potere statuale, dei poteri internazionali, ma anche dal punto di vista stesso dell'antropologia, pensiamo semplicemente al rapporto che abbiamo con la tecnologia. Quindi questa catastrofe in cui siamo immersi ormai da diversi decenni, che si misura appunto nei termini della libertà ridotta che abbiamo, si manifesta attraverso diverse cose che accadono nella vita della popolazione. Sicuramente guardare quello che accade nelle periferie, guardare quello che accade nella mancanza di servizi sanitari, nella mancanza di diritti sociali, così come che venivano chiamati un'epoca, è sicuramente un modo molto interessante per capire che cosa sta avvenendo, cercando appunto di mettere una lente su determinati argomenti, non pensando di poter naturalmente leggerli come si legge un libro, ma di cercare di capirli. Ecco perché, chiamando un attimo quello che dicevi tu, è molto interessante fare per esempio il riferimento alla questione di come tutta una serie di servizi che negli ultimi anni sono stati tagliati, le persone che non riuscivano ad usufruire della sanità siano probabilmente arrivati a un punto di non ritorno proprio col Covid, e per cui possiamo dire quasi che il Covid ha segnato la fine del Novecento con tutte quelle istanze sociali che si portava dietro, come nel Novecento la prima guerra mondiale è stata la fine del secolo prima. Possiamo quasi dire che questo secolo, il secolo passato, è finito nel 2020 con il Covid, e quindi ci saranno tutta una serie di cambiamenti abbastanza repentini che abbiamo già visto in qualche modo negli anni precedenti e che adesso probabilmente sono arrivati al loro punto in cui lo sfruttamento e la repressione che portano con sé diventeranno effettivi a tutti i livelli. Infatti abbiamo cercato di approfondire alcuni temi all'interno di questo libricino, come quello della cittadinanza. La cittadinanza che era imprigionata fino a qualche tempo fa all'interno di un'idea di Stato-nazione che elargiva un certo tipo di diritti a fronte di una dialettica sociale tra le varie classi, a seconda della loro capacità di rivendicare dei diritti all'interno dello sfruttamento della società industriale, oggi troviamo a un altro livello di imposizione, e il Covid appunto lo mette in luce ancor meglio di quanto è successo negli ultimi anni. Siamo arrivati probabilmente al momento in cui è palese che lo Stato non ha più intenzione di elargire le possibilità di sopravvivenza per buona parte della popolazione, neanche in cambio della sudditanza e della disciplina del lavoro, ma in cambio di una vera e propria selezione fatta in maniera massiccia di coloro che sono destinati a sopravvivere in questo mondo e di coloro che non lo sono. A partire dai documenti per chi naturalmente arriva nei paesi che rappresentano ancora in qualche modo un'immagine di ricchezza, posto che questo sia vero o non vero per esempio per la vecchia Europa, fino ad arrivare ai limiti massimi in cui abbiamo già visto negli ultimi anni che il diritto alla pensione, il diritto alla sanità, il diritto a questo, a quest'altro veniva tolto a seconda del fatto che tu magari avessi una condanna di un certo tipo, oppure che non avessi rispettato un certo tipo di etica che lo Stato impone. Ricordiamo infatti qualche anno fa il licenziamento della maestra di asilo a una manifestazione antifascista che urlava contro la polizia. Siamo entrati in un periodo in cui la selezione è la linea tra inclusione e esclusione, perché le risorse che sono diventate estremamente limitate in questo mondo devastato possono assicurare un certo tenore di vita solo a pochissima popolazione, un tenore di vita naturalmente altissimo, quello dei superpotenti, dei superricchi, dei governanti, di chi gestisce questo mondo, ma per assicurare questo stile di vita altissimo, con quell'andamento di innovazione tecnologica che si porta dietro, masse di esclusi diventeranno sempre quantitativamente maggiori. È il caso appunto della produzione industriale, il grado di tecnologia e quindi di ricchezza di sapere in mano a certe classi sociali e a certe infrastrutture di potere a livello globale è tale che non si ha più bisogno di un quantitativo enorme di operai, di gente che si occupa di manifattura. Naturalmente lì va a cascare il contratto sociale, per cui questa gente non avrà più quella possibilità di vita che gli era stata assicurata in buona parte del Novecento, ma finirà quindi a elemosinare ai margini di questo concetto di cittadinanza che coincide appunto con l'appartenenza a delle sfere di privilegio, perché oramai non stiamo più parlando di sfere di diritto, stiamo parlando di sfere di privilegio in cui non è ancora chiaro come alcuni si assicurano il fatto di poterci stare dentro, perché appunto siamo probabilmente in una fase di transito in cui la politica si sta ancora riformando e questo concetto di cittadinanza non si capisce bene chi includerà e chi escluderà. Certo, abbiamo avuto tutta una serie di segni e lo spazio urbano sicuramente ce ne dà di abbondanti per quanto riguarda appunto chi può stare all'interno di quartiere, chi può accedere a un certo tipo di servizio sanitario, chi può accedere alla scuola, chi può accedere alla residenza. Sono tutte cose che negli ultimi anni abbiamo visto moltiplicarsi anche abbastanza velocemente, ma mai da raggiungere quella soglia di, potremmo dire, la soglia critica, no? Si pensa probabilmente che siamo arrivati alla soglia critica in cui quel cambiamento quantitativo diventa un cambiamento effettivo di quello che sta accadendo. Ci ritroviamo quindi con i piedi interamente in un nuovo mondo che si porta sicuramente agli strascichi di quello vecchio, ma che dobbiamo imparare a guardare, perché probabilmente quello che accadrà a livello di politiche sullo spazio, a livello di politiche di cittadinanza, a livello di politiche repressive, a livello di politiche di accesso ai vari servizi, che non saranno probabilmente più quelli come la sanità, la scuola, altre cose perché sono già compromessi, ma saranno servizi nuovi che probabilmente assicureranno la sopravvivenza in alcuni parti del mondo a alcune persone e invece escluderanno dalle possibilità di vita tante altre. Pensiamo semplicemente all'accesso alla tecnologia. Purtroppo il problema non è neanche più avere, ripudiare, non ripudiare il progresso tecnologico. Il fatto è che la tecnologia oggi, in alcune parti del mondo, pensiamo per esempio ad alcune metropoli asiatiche, assicura la sopravvivenza a milioni di persone. Pensate a certe città coreane in cui si entra in un oxygen bar per assicurarsi una boccata d'aria pulita. Naturalmente non siamo più purtroppo nel campo della libertà così come poteva essere pensata 300 anni fa, ma siamo in un campo che dobbiamo imparare a conoscere per capire come riuscire a mordere, a strappar via ancora qualcosa che ci assicuri la sopravvivenza e che continua a far sentire in pericolo coloro invece che sono in zone di privilegio da cui amministrano il mondo, cercando di non cadere nell'ostacolo portato avanti, nel discorso portato avanti dal potere, anche dal governo italiano in una certa maniera, ma in generale in questo periodo pandemico sempre più prepotente, di farci sentire all'interno di questa prospettiva antistoricista e antipolitica all'interno della categoria dell'Homo sapiens, come se fossimo tutti uguali e che l'umanità è arrivata in base a un andamento omogeneo, in base al fatto che abbia preso una decisione universale di arrivare a questo punto di distruzione della libertà e del mondo in cui viviamo. È chiaro che questo non è vero. Certo. È chiaro che l'andamento dello Stato, del potere degli ultimi 150 anni non è stata una decisione universale di tutti coloro che facevano parte di un certo tipo di contratto sociale, se vogliamo chiedere al contratto sociale. Non si tratta di questo, quindi dobbiamo cercare di guardare quello che sta accadendo, come abbiamo fatto all'interno di Dietro l'Angolo, per cercare di smontare questo discorso secondo cui la responsabilità della catastrofe in certo, cui siamo è di tutti quanti. Certo, ma infatti diciamo che questo già ormai da un po' di tempo e soprattutto nei discorsi legati alle cosiddette, insomma, al cosiddetto le cosiddette catastrofi ambientali, sempre per rimanere appunto anche sul discorso della fine, un concetto, una nozione che è rientrata con forza e ora in questo periodo di pandemia ancora di più è proprio quella di humankind, no? Di specie umana, presentata appunto, come dicevi tu, come un tutto indifferenziato che in maniera uniforme ci ha portato quasi a occhi chiusi, quasi a fari spenti verso una situazione che invece appunto, cioè, vede determinati responsabili e in maniera molto chiara. Rispetto al discorso che facevi tu, Ovviamente abbiamo avuto anche diversi segnali, no? Parlavi del problema della cittadinanza, che è sicuramente uno spartiacque importante anche per affrontare questo problema, e dei segnali ci sono stati, lo avete anche citato se non sbaglio in uno degli articoli presenti sul Libello, che appunto riguardano questa regolarizzazione lampo, di cui pure abbiamo parlato qui da questi microfoni in questa trasmissione, rispetto ai braccianti. Ecco, quello mi sembra un segnale che va esattamente in quella direzione. Il discorso lo banalizzo adesso e lo semplifico, è stato una mancanza di manodopera e quindi una problematizzazione diversa del problema della cittadinanza e della possibilità di restare su un territorio, legato a un mondo del lavoro particolare, che è quello appunto del settore primario e della produzione agricola e alimentare. Quindi di segnali in questo senso ce ne sono stati già diversi. Noi ovviamente è un discorso che portiamo avanti anche da diverso tempo, e da un certo punto di vista neanche ci stupisce troppo, però effettivamente c'è il palesarsi così estremo di alcune dinamiche, è sicuramente importante sottolinearlo. A tutto ciò però direi si aggiunge una difficoltà secondo me molto importante, che è quella un po' dell'emergere in maniera forte di una sorta di nuova ragione di Stato, io la chiamerei così, che è tutta concentrata e legata sul concetto di salute, sul concetto di sopravvivenza, diciamo anche proprio biologica, della specie, che comunque è un tema molto forte e di difficile interpretazione, in cui è difficile districarsi dentro, perché appunto di fronte alla paura e al rischio di poter di potersi contagiare, di poter contagiare altre persone, determinati discorsi vengono un po' saltano. E c'è un pezzo di un articolo che a me piace molto, in cui voi dite che non si tratterà di una semplice alternativa tra libertà e paura, quanto piuttosto tra libertà di esporsi o meno a un rischio e trovarsi costretti invece a doverlo fare per sopravvivere, che mi sembra che fotografa bene soprattutto i temi che poi sono legati al mondo del lavoro e chi insomma si è dovuti sobbarcare anche nei periodi più difficili del lockdown. Sì, sì, infatti il concetto di soprattutto se ci ricordiamo nella prima parte, diciamo, della primavera scorsa, l'inizio dell'emergenza pandemica, molti delle proteste, degli scioperi, delle lotte che ci sono state nei luoghi di lavoro erano proprio tesi a sottolineare il fatto che chiudono tutto, noi non andiamo a lavorare perché ci teniamo alla pellaccia, vogliamo, come dire, garantire la nostra sicurezza e quella delle nostre famiglie, per cui protestiamo per non essere costretti ad andare a lavorare. Una cosa interessante, visto che da allora sono passati ormai diversi mesi, è che attualmente lo vediamo tutti, c'è una fortissima inversione di tendenza da questo punto di vista, cioè quei fatti lì sembrano appartenere a un altro tipo di problema, un altro tipo di emergenza, quando siamo ancora immersi in questa situazione di epidemia e in questa gestione emergenziale del Covid. Da questo punto di vista io credo che quello che sta accadendo è abbastanza interessante, dobbiamo farne tesoro come riflessione, anche perché allude a tutta una serie di possibili scenari e di situazioni in cui potremmo trovarci immersi rispetto ad altri, se così li vogliamo definire, problemi legati a emergenze climatiche che prima o poi, con forme che magari non siamo in grado adesso di immaginare precisamente, comunque si presenteranno. E a me sembra che il dato, almeno da registrare finora, è che la percezione della gravità, l'attenzione verso la questione sicurezza in ambito sanitario e epidemico è inversamente proporzionale alla gravità di altri ordini di problemi da cui gli uomini e le donne sono assillati, per cui oggi come oggi che dopo mesi e mesi di emergenza climatica, in cui l'orizzonte che si vede è quello di avere una difficoltà sempre più stringente di portare a casa uno stipendio, i soldi che servono per tirare a campare, quella che è la preoccupazione di ordine sanitario sta venendo meno. Una preoccupazione che paradossalmente, ma non tanto, invece è molto più forte, c'è molta più attenzione da parte di settori, se così li vogliamo definire, più garantiti, che come dire, non o comunque con un livello di istruzione e alfabetizzazione e attenzione a una serie di aspetti maggiore, che comunque non vedono venir meno in maniera perlomeno così forte la possibilità di accedere a un salario e un reddito. Gli altri, i tanti che hanno perso il lavoro, che rischiano di perderlo, che non pensano di poter rialzare la serranda, oggi rispetto alla primavera scorsa mostrano un'attenzione rispetto a questi problemi sanitari molto molto minore. Ecco, questo è un aspetto abbastanza significativo e contraddittorio, perché anche nelle piazze, quando un mesetto fa c'è stata quella, insomma, effetto domino un po' vivace tra le varie piazze di varie città, la rabbia per la gestione di questa emergenza non era minimamente accompagnata da dei discorsi su era una rabbia rivolta esclusivamente o prevalentemente a quelli che possono essere degli aspetti strettamente economici e sociali. Non c'era nessuna grido per richiedere, rivendicare o incolpare le autorità di quella che era invece, che erano le mancanze da un punto di vista sanitario. Mi sembra di almeno per quella che è stata un po' l'esperienza qui, mi sembra di poterla leggere così. Sì, più o meno, diciamo che è un po', effettivamente concordo, è stata una cosa che un po' ha attraversato non solo l'Italia, un po' in generale, per restare all'Europa, direi un po' tutta l'Europa, effettivamente le problematiche, almeno diciamo di pancia, le prime cose che sono venute fuori sono proprio quelle, giustamente direi, anche legate a, diciamo, alle preoccupazioni soprattutto appunto economiche, di sopravvivenza, che molte persone immaginano o già si trovano a vivere o immagino di viversi nel brevissimo tempo. Restando sempre sulla questione, diciamo, legata al mondo del lavoro, ci sono due temi che vorrei provare ad affrontare con voi. Uno è quello diciamo della riconfigurazione del sistema welfaristico, la metto così con uno slogan molto rapido, e poi insomma cerchiamo di approfondire un po' questo tema. C'è per esempio un ragionamento secondo me interessante su che parte un po' da un'analisi che fate sul credito sociale cinese, che secondo me è interessante per far capire quantomeno la direzione che sta prendendo, che si sta prendendo rispetto a determinati ragionamenti. Ovviamente è importante continuare a ripetere che i ragionamenti che stiamo provando a fare sono appunto degli abbozzi di ragionamento e un po' quello che si diceva rispetto, no, a quest'idea di fine. Sicuramente una cosa di cui possiamo essere abbastanza sicuri e sicure è che non ci saranno diciamo eventi scintillanti che causeranno da un giorno all'altro diciamo un cambiamento repentino e radicale, ma un cambiamento molto lento e di lunga e larga portata, che porterà a tutta una serie di modificazioni. Quindi da una parte questa questione legata appunto, sempre per restare nel tema di inclusione ed esclusione, quindi chi saranno e quali saranno le strategie per, diciamo, tenere botta almeno nel breve periodo, e quindi sì, insomma, più o meno su questo, se volete dire qualcosa, poi continuiamo. E ovviamente sì, l'altra cosa era anche, ne faceva accenno la compagna prima, è riguardo a tutta una serie di questioni legate, diciamo così, sempre per banalizzare, alla riconversione tecnologica o tecnica di alcune diciamo sfere lavorative. Sì, ecco, come dicevi tu, Allora, si può dire che una delle condizioni, diciamo, per accedere a quello che un tempo veniva definito stato sociale, cioè a una gamma di servizi, di beni, di redditi extralavorativi, era l'accettazione della propria condizione. Quindi, e questa ci sembra, come dire, una delle questioni, uno degli aspetti su cui focalizzare la nostra attenzione, nel senso che la disponibilità immediata al lavoro, no? Quella che ci viene richiesta quando facciamo richiesta per la NASPI o per il reddito di cittadinanza, ha evidentemente una funzione principalmente e prettamente disciplinante, così la vogliamo definire, cioè è quella merce di scambio, quell'oggetto di scambio che lo Stato richiede al beneficiario di una determinata prestazione per potergliela erogare. Una merce di scambio in cui il beneficiario sostanzialmente, con questa disponibilità immediata al lavoro, dice: io sono oggi come oggi, almeno teoricamente, disponibile a lavori precari, a una formazione continua, a tutta una serie di percorsi formativi che, più che permettermi di immettermi nel mercato del lavoro, servono a come dire, mostrare la mia buona volontà di seguire quelle che sono tutta una serie di direttive. Ecco, questa è, diciamo, un po' il cuore di quelle che vengono definite politiche workfaristiche o come dire, politiche attive di contrasto alla disoccupazione. E questo è importante, perché, diciamo, l'accesso a questo, diciamo, questo welfare, chiamiamolo così, dipende da tutta una serie di questioni non legate, diciamo, allo statuto economico tout court di una persona, ma al, diciamo, alla sua esistenza intesa in senso più ampio. Ovviamente anche questo è un elemento di continuità con quanto, diciamo, avvenuto negli anni precedenti, però credo che su questo effettivamente si possa già vedere un'accelerazione molto forte. E su questo gli esempi possono essere vari, no? Tra le patenti sbandierate di immunità, a tutta un'altra serie di altre cose che potranno consentire o meno l'accesso o meno a determinati servizi, sia da un punto di vista dell'aiuto sociale, ma sia proprio da un punto di vista proprio dei servizi, quindi il trasporto, quindi tutta una serie di cose. Questo mi sembra un elemento abbastanza forte. Sì. Il limite, ecco, diciamo, la limitatezza di queste politiche welfaristiche è che sono ancora figlie di un mondo che ruotava attorno al lavoro, che ruotava attorno alla società, all'attività salariata, una società che vedeva in vari modi, sicuramente dagli anni 70 ad oggi, comunque una possibile ricerca di coesione sociale attorno al mondo lavorativo. E questo è un mondo che, come, insomma, si accennava prima, sta volgendo al termine. Da questo punto di vista sono interessanti, è interessante vedere quello che sta succedendo, per dire, in Cina. Tu citavi prima il credito sociale cinese, che è un argomento di cui si è parlato parecchio negli ultimi mesi, ma l'aspetto significativo di questo credito sociale cinese è che lo Stato cinese, in collaborazione con, mi sembra, Alibaba, questa piattaforma, eroga una serie di servizi e di beni in cambio di, se così la vogliamo definire, una rettitudine che il cittadino cinese deve mostrare, una rettitudine che viene come dire, misurata attraverso una certa affidabilità creditizia, per cui deve essere in regola col pagamento delle bollette, del mutuo o delle tasse o chissà altro, e attraverso una serie di, viene misurata anche attraverso una serie di comportamenti minimali. Gli esempi che molti fanno è anche il come questo cittadino dimostra di partecipare alla differenziata della spazzatura piuttosto che fatti di questo tenore. Ecco, oggi, tornando al discorso di prima sulle politiche warfaristiche, se condizione per accedere a un certo servizio, a un certo bene, era la disponibilità, è la disponibilità immediata al lavoro, cosa ci suggerisce questo credito sociale cinese? Ci suggerisce che non è più il lavoro l'ambito, l'oggetto di scambio all'interno del quale lo Stato sceglie a chi fornire determinati beni o determinati servizi, ma è la vita quotidiana. Quindi bisognerà mostrarsi retti e affidabili a partire dai comportamenti che devono rientrare all'interno di una normalità imposta naturalmente dalle autorità per poter accedere a quei minimi servizi, a quei minimi beni che serviranno a sopravvivere, a campare in qualche modo, ad avere un tetto sopra la testa, a poter mandare il proprio figlio all'asilo, eccetera, eccetera. Adesso, sicuramente, con questo non vogliamo dire che domani lo Stato italiano, esatto, farà il credito sociale cinese, certo, perché le differenze tra, il paese in cui viviamo e la Cina sono enormi da tanti punti di vista, ma ci sono dei segnali importanti che effettivamente mostrano che stiamo andando in quella direzione anche qui. Pensiamo alla discussione che c'è stata sui buoni spesa sempre la primavera scorsa, quando ci sono stati i primi segnali che qualcuno voleva provare a entrare nel supermercato e uscire col carrello senza pagare. Ecco, la polemica su evitare di fornire buoni spesa a quelle persone accusate di determinati reati, e poi la stessa cosa che avviene per il reddito di cittadinanza, da cui sono esclusi una serie di soggetti che hanno determinati precedenti, ci mostra che per anche in momenti di emergenza avere la possibilità di avere un buono, entrare, comprare della pasta e del sugo, bisogna aver mostrato una certa rettitudine e affidabilità nei confronti dello Stato. Assolutamente, infatti lo ripetiamo di nuovo, cioè è importante vedere queste dinamiche proprio come delle tendenze, no? Poi quello che avverrà dopodomani in un paese, direi, oserei dire, molto poco smart se paragonato a tanti altri in Europa o in giro per il mondo come l'Italia, noi non lo sappiamo, però sicuramente è importante tenere d'occhio queste tendenze, ma su questa, questione meritocratica e dei comportamenti virtuosi già ne parlavamo ai tempi, no? Rispetto alla regolarizzazione dei migranti, e lo si è visto, no? Per ottenere quasi un permesso di soggiorno ottenuto a punti rispetto a vai a pulire il parco oppure fai determinate cose utili per la società. Quindi questa tendenza qui è un qualcosa che va affermandosi ormai da diversi anni. Restando sempre all'interno di questo ragionamento dei cosiddetti comportamenti virtuosi che poi possono o meno dare l'accesso a tutta una vita sociale fatta di aiuti o di accesso a determinati servizi, un altro leitmotiv di questo di questa pandemia, o soprattutto della narrazione di questa pandemia, è quello che abbiamo sentito ormai dall'inizio di questa cosa, ovvero dobbiamo imparare a convivere con il virus, dobbiamo quindi fondamentalmente, per restare nei termini della discussione che stiamo abbozzando, dobbiamo imparare a vivere in questo mondo che effettivamente non è finito, ma che presenta delle particolari caratteristiche di fine, almeno per come lo stiamo presentando, ma ci sono altre suggestioni che parlano ad esempio di mondo diminuito, che a me sembrano più azzeccate. Cioè dovremmo imparare a convivere con in un mondo in cui effettivamente, come diceva anche bene la compagna prima, ciò che è finito sono determinate situazioni di vita che noi siamo abituati ad affrontare in un certo modo. Che la vita, così come la conosciamo, come l'abbiamo conosciuta fino adesso, sta subendo delle modificazioni importanti. Sì, la, come dire, la, il livello di, da tanti punti di vista, la pervasività della, lascio la parola, scusate, no, vai, vai. Volevo questa domanda, ne ho avuto un piccolo intoppo tecnico, mettiamola così. Okay. No, volevo un attimo fare un passo indietro rispetto a sia la convivenza col virus di cui parlavi, sia rispetto a che cosa significa avere un certo tipo di rettitudine rispetto alla gestione statale dal parte del welfare. Perché se è vero che abbiamo visto dei paradigmi come quelli del credito sociale, è vero anche che c'è uno scarto con la realtà materiale della vita, perché qua in realtà in Occidente, soprattutto in Italia, abbiamo visto che a fronte di un modello di welfare, quello della disciplina del lavoro di cui si parlava prima, oggi invece abbiamo intere generazioni che sono lasciate nell'indeterminatezza della vita. E quel paradigma di disciplina che ha accompagnato fino a pochi decenni fa, che fosse quella del partito, del sindacato, del lavoro, del dopolavoro, della chiesa, eccetera, eccetera, che sono andati in qualche modo naufragando e che erano in qualche modo delle catene anche, no? In cui lo Stato, ancora prima della sfera penale, arrivava a agire sulla popolazione. Quello che accade oggi è che invece in certe parti del mondo, come in Italia, c'è un'indeterminatezza tale della società, un livello di rischio rispetto alla vita sociale che non è in qualche modo possibile mettere all'interno della bilancia dei benefici che lo Stato ti restituisce, non più in termini di diritto, come dicevamo prima. E quindi la società viene vista come criminogena da parte dello Stato, possiamo vederla appunto in tutti gli ultimi decreti sicurezza. Per cui possiamo vedere come tutta una serie di servizi statali si trasformano in infrastruttura, non più servizi individuali, ma infrastrutture che servono a reggere la baracca, non più rendendo una serie di diritti a tutti i suoi cittadini, ma elargendo una serie di servizi laddove è possibile per arginare il rischio sociale. E questo riguarda la sanità, riguarda il lavoro, riguarda tutte le politiche che riguardano per esempio chi perde il lavoro, come la NASPI, eccetera eccetera. Insomma, abbiamo in pratica un governo del rischio, che è lo stesso paradigma che ci stanno proponendo ora in tutte le fasi, anche per quanto riguarda in qualche modo il vivere con il virus. Loro infatti dicono, attraverso un discorso che viene dalle culture manageriali, che dobbiamo abituare a vivere con eventi che scombussolano continuamente la nostra vita, a cui ci dobbiamo abituare. Addirittura dicono che non dobbiamo neanche più essere resilienti, come dicevano qualche anno fa, ma addirittura la cultura manageriale dicono che dobbiamo essere antifragili, cioè prepararci a subire urti in continuazione perché viviamo nel rischio totale. È così che ci preparano a vivere attraverso decreti continui di convivenza con il virus, che arrangiano continuamente le nostre vite fino a scendere a livelli di biopolitica, in cui ti dicono anche quanta di distanza dovrai avere con tuo nonno il giorno del pranzo di Natale. Sì, sì. Siamo arrivati a dei livelli o con quante persone potrai o non potrai cenare, come se appunto un'infantilizzazione anche da questo punto di vista incredibile, no? Ormai noi non ci facciamo neanche più caso, ma effettivamente una volta che mi hai spiegato com'è il contagio, ammesso che io non possa capirlo da solo o da sola, dirmi addirittura se posso stare in 5, in 7, in 6, chi è il mio congiunto, chi non è, diventa arriviamo lì veramente a dei paradossi che però spiegano bene, no, la situazione. Sì. Stiamo parlando di veri e propri paradossi, effettivamente, naturalmente accompagnati, perché ora siamo rimasti sulla sfera del prettamente politico, anche da tutta una serie di nuove questioni che andremo probabilmente a scoprire pienamente solo nei prossimi anni, che sono quelle dell'innovazione tecnologica. Esatto, esatto. E guarda, se volete aggiungere qualcosa su questo, perché ho visto che anche insomma questo tema qui, che è abbastanza spinoso, è abbastanza è trattato, diciamo, in vari articoli. Si può dire che il nostro rapporto con la realtà, col mondo materiale, è immaginiamo un po' tutti, la maggior parte delle attività che svolgiamo è sempre più filtrato attraverso dei dispositivi, delle tecnologie digitali, però più quello che ho in mano adesso per parlare con te, lo smartphone. Questa tendenza, che sembra ineluttabile e, come dire, difficilmente modificabile, ecco, e che sta producendo dei cambiamenti, qualcuno sostiene anche a livello proprio organico, biologico, nell'essere umano, no? I nativi digitali sembra che sviluppi, si crescano in maniera diversa da come è cresciuto l'uomo nei decenni o nei secoli scorsi, sviluppando meno alcune, come dire, proprietà, perché queste funzioni qui non, a queste funzioni qui non deve più pensare, non deve più assolvere. Certo, certo, si tratta, ecco, di un adattamento all'ambiente esterno, diciamo, tipico proprio di qualsiasi corpo biologico, chiaramente, cioè, cioè modificandosi l'ambiente esterno su diversa scala, è chiaro che cambia anche, che ci saranno, ci sono sempre state, insomma, queste cose. Ecco, se questa era una tendenza in atto già da tempo, contro cui molti di noi hanno cercato di, stanno, cercano di opporre una resistenza anche individuale, quando non collettiva, gli ultimi mesi da questo punto di vista hanno rappresentato proprio, come dire, una frana rovinosa, uno scivolamento sempre più veloce e vorticoso verso la dipendenza da una determinata infrastruttura tecnologica che ha ancor più riempito le nostre vite quotidiane nei più diversi ambiti. Lo smart working, che per molti, per moltissimi è stata la prima volta, ha rappresentato la prima possibilità di, come dire, lavorare in un ambiente domestico, interfacciandosi con dei dispositivi digitali con il luogo di lavoro, la didattica a distanza, rappresentano dei punti da cui credo difficilmente si tornerà indietro. Se pensiamo a un ambito altro, come quello della reclusione, cioè l'essere sepolti dentro un carcere senza potervi uscire, perché a partire dalla videoconferenza fino ad arrivare alle videochiamate, ai videocolloqui con i familiari, si può, come dire, mantenere un rapporto, se così lo vogliamo definire, con l'esterno, e si può continuare ad accedere a quelli che sono un tempo venivano definiti i diritti, il diritto dell'habeas corpus, restando chiusi in cella. Pensiamo a quello che è avvenuto adesso e a come questo tipo di rapporto assolutamente mediato e filtrato con la realtà potrà ripresentarsi in altri momenti, per altre emergenze, o anche soltanto per una, come dire, gestione economica delle risorse, perché evidentemente la videoconferenza che nasce per impedire ai detenuti ristretti in 41 bis di partecipare ai processi, che ha subito un'estensione notevole, è estremamente, tra le tante cose, economica per il DAP e per lo Stato. E da questa dipendenza estrema ben difficilmente si tornerà indietro. Se pensiamo poi all'ambito della socialità, a come si sono costruite delle safe zone tra persone che adottano determinati stili di vita e determinati criteri di sicurezza, e che quindi decidono di avere un minimo di socialità a partire da scelte che vengono discusse, gestite e controllate attraverso strumenti tecnologici, il salto, ecco, da questo punto di vista forse è uno dei salti più ampi che abbiamo compiuto in questi mesi, e non si intravedono per il momento grossi segnali, come dire, di resistenza, di una resistenza, se così la vogliamo definire, umana. Sì, tutt'altro, direi. Un essere umano, per come l'abbiamo immaginato almeno noi fino adesso, diciamo. Esatto, nel senso che ecco, sì, ci sono dei ragazzi che soprattutto penso delle superiori che stanno rifiutando la didattica a distanza con dei discorsi che non sono, ecco, esattamente e precisamente, non vanno precisamente in questa direzione. Secondo me sono dei segnali anche positivi, però è certo un fenomeno anche, ancora abbastanza marginale da parte delle famiglie di questi ragazzi del mosso qualcosa. Da quello che mi dicono molti compagni, molti amici che lavorano invece nella scuola, per dire, la questione è anche ambivalente da parte dei professori. Certo. Molti non ritengono la didattica a distanza come problematica, e provando un po', come dire, ad affrontare questa cosa, questo aspetto, la questione tecnologica, unificando un po' i vari ambiti in cui questa pervasività non ha fatto altro che aumentare, viene da chiedersi come il rapportarsi tra esseri umani e il rapportarsi dell'uomo col mondo attraverso dispositivi e interfacce digitali vada poi a modificare il senso e il significato stesso che noi attribuiamo alla realtà. E questo non è un problema filosofico. No, assolutamente. Non è un problema. È molto materiale. Perché non sa a che cazzo pensare quando sta sul divano a guardare il muro. Certo. È un problema reale. Pensiamo a come cambiano di significato determinate parole, a partire dalla parola intelligenza. Sì, sì. Smart è l'aggettivo che viene messo da prima o dopo ogni parola ormai. Esatto, ormai il prefisso di praticamente tutte le diavolerie, le trovate tecnologiche che vengono adottate. Sì, sì. Ecco, da questo punto di vista ci aveva colpito molto quando l'avevamo letto questo test di Turing che abbiamo citato su questo, sì, libricino, che ci è sembrato proprio significativo di questo, come dire, di come i cambiamenti vadano di pari passo con i cambiamenti materiali vadano di pari passo con quello che è il cambiamento poi di significato e di linguaggio. Brevemente la storiella è questa. Questo Turing è l'autore di un testo che adesso non ricordo precisamente, comunque che riguardava l'intelligenza artificiale come la capacità di calcolo delle macchine, un testo apparso ormai negli anni 50, negli anni 60. E lui l'aveva buttata lì così, detto il gioco è questo: io provo a Pronto? In pratica il test di Turing si basa sul fatto che una macchina, cioè che si debba riconoscere qual è la macchina tra i possibili concorrenti di un gioco. Naturalmente è veramente difficile da individuare, lo era individuare qual era la macchina all'interno di appunto una serie di domande, riconoscere qual è la macchina che risponde a queste domande. Naturalmente questa è un tipo di interrogatorio che al giorno d'oggi non ha quasi più senso, perché la questione non è tanto, certo, effettivamente come la macchina può essere distinta dall'umano, ma il fatto che la maniera di esaminare i problemi, la maniera di concepire alcuni dispositivi tecnologici è tale che cambia anche la maniera che ha l'uomo di ragionare, e quindi discutere su quale sia la differenza tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana perde di senso laddove noi viviamo in un mondo in cui l'organizzazione tecnologica è tale per cui anche l'uomo risulta cambiato da questa intelligenza artificiale. Per cui chiedersi com'è che si può distinguere qual è l'intelligenza artificiale o l'intelligenza umana è qualcosa che non ha senso. Ma perché è interessante questo tipo di quesito riguardo alla distinzione tra intelligenza artificiale e intelligenza umana? Perché per noi compagni, per gli amanti appunto di un mondo di liberi uguali, entra in campo il concetto di libertà, il concetto di quale potenzialità ha l'uomo rispetto al gioco, che non è semplicemente tecnologico ma è un gioco di potere. Cioè la tecnologia non è semplicemente uno strumento ma è una maniera in cui si raffinano e si portano avanti e si reiterano i rapporti di potere. Per cui chiedersi qual è la distinzione tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana è un quesito che parla in primis di qual è il campo della libertà in cui noi tutti purtroppo siamo costretti a camminare. Assolutamente, e ovviamente poi insomma questo è un macro tema anche diciamo abbastanza spinoso e anche complicato da affrontare così insomma su due piedi. Sicuramente ecco è proprio l'articolo di cui state parlando in questo momento, che secondo me è molto interessante, che è presente appunto sul libro. Si conclude poi col fatto che appunto c'è ovviamente di fronte a tutto ciò un atteggiamento di tipo primitivista o comunque diciamo così molto è un po' naif in questo momento. Si tratta piuttosto di appunto di capire nel dettaglio tutta una serie di problematiche legate diciamo a quello di cui stiamo parlando e magari di provare a vedere se ci sono possibilità diverse, possibilità di composizione diversa con tutti questi strumenti che appunto ormai sono estremamente presenti nelle nostre vite, nel senso che secondo me una prospettiva appunto di totale rifiuto è piuttosto naif sia come proposta politica concreta sia come attitudine proprio in generale. Non so su questo cosa ne pensate. Assolutamente sì, è parecchio problematico pensare che ci possa essere semplicemente un rifiuto tout court della tecnologia, non perché non ne conosciamo la perniciosità, non che non conosciamo quanto effettivamente la tecnologia vada in qualche modo a inficiare il nostro campo di libertà, ma dal momento in cui il mondo è organizzato così e si pretende che certe persone la utilizzino, pensiamo semplicemente ai rider in strada che usano i dispositivi per poter lavorare, pensare di poterne fare a meno non è in grado di capire qual è il livello in cui la tecnologia va a comporre il mondo e non è neanche in grado di mettersi in una prospettiva conflittuale rispetto a questo, perché naturalmente la tecnologia fa parte di un apparato ben più complesso che è l'apparato politico di cui la tecnologia è naturalmente una parte sostanziale, e volerla escludere significa non andare a capire come il mondo viene governato e quindi togliersi la possibilità di andare a cambiare degli assetti, a provare a distruggere dei rapporti sociali che oggi ci determinano tutti. Per cui pensare di poter rinchiudersi in una casa di montagna senza la tecnologia è una scelta individuale sicuramente rispettabilissima, certo. Però pretendere che nessuno utilizzi la tecnologia significa non capire qual è il ricatto esistenziale a cui tutti quanti siamo sottoposti. Esattamente, sì. No, tra l'altro poi appunto ci sono varie esperienze storiche secondo me anche piuttosto mistificate o comunque dal mio punto di vista comprese male, come per esempio quella tanto di cui si è parlato a livello storiografico tanto, come quella dei luddisti. Luddista adesso è diventato quasi un sinonimo per chi è contro le macchine. Effettivamente quel tipo di approccio invece parliamo ovviamente di un'altra epoca, però anche in quel caso c'era l'immissione all'interno di un determinato mondo del lavoro di nuove macchine, e la cosa che a studiare bene quel fenomeno, la cosa che stupiva di più non era diciamo la cieca contrarietà alle macchine tout court, ma invece la precisione con cui i cosiddetti luddisti andavano a distruggere determinate macchine, quindi non le macchine in generale, che erano proprio quelle che andavano a modificare la loro vita, il loro stile di vita, il loro modo di vivere all'interno di comunità che diciamo venivano ovviamente parliamo di altri tempi, venivano erano comunità piuttosto agricole che si stavano diciamo affacciando verso il mondo industriale. Quindi insomma ci sono anche tanti esempi interessanti che potremmo anche come dire riprendere in maniera un po' più precisa e che possono darci, appunto, fornirci degli strumenti per leggere quello che sta avvenendo adesso. Allora, io, se non volete aggiungere altro, a voi vi lascerei, così riesco a contattare anche l'altro compagno, con cui proveremo diciamo affrontare un po' l'altro lato della medaglia, ovvero tutto questo di cui abbiamo, diciamo, provato a parlare qui, produrrà e sta producendo e produrrà sicuramente tutta una serie di dinamiche conflittuali che pure sarà, insomma, cercheremo un po' di affrontare e capire in quale direzione potrebbero o non potrebbero andare. Non so se volete aggiungere ancora qualcosina oppure se ci possiamo salutare. Sì, io ci tenevo a dire che, insomma, questa divisione anche degli interventi di oggi mi sembrava abbastanza precisa. Noi, nello scrivere questo libricino, ci siamo resi conto di essere stati eccessivamente schematici nella divisione un po' degli argomenti, no? E un po' questa come dire, questa argomentazione che abbiamo provato a fornire io e Francesca adesso lo rappresentano bene, nel senso che abbiamo per adesso provato a tratteggiare brevemente alcuni possibili scenari in cui alcune possibili tendenze già presenti che tenderanno a verificarsi, senza tener conto poi di quella che è una variabile fondamentale, in grado non solo di, come facevano i luddisti, bloccare delle macchine, ma anche di sparigliare completamente poi quelle che sono dei processi e delle dinamiche, di sparigliare completamente quelle che sono le carte in tavola e le strategie che vengono approntate dalla controparte, che è quella del conflitto, che è quella del conflitto sociale. Per una questione di anche facilità nostra, visti un po' i limiti che ci sono propri, abbiamo preferito dividere in maniera un po' schematica, ecco, il libricino in una prima parte, diciamo, più descrittiva, come se, anche eccessivamente piana, quindi priva di qualsiasi conflitto, ma non perché pensiamo che questi siano evidentemente terreni senza asperità, lisci, in cui si potranno affrontare strategie e mettere in moto dei processi senza incontrare resistenze e conflitti. L'ultima parte del libro, è la parte di cui adesso discuterete con Toshi, cerca un po' di sottolineare alcune possibilità di conflitti contraddittori e conflitti come quelli che invece vorremmo che riempissero le strade e le piazze di queste città, cioè quindi con il naso rivolto all'insù verso chi ci governa e chi ci sfrutta. E comunque vi ringraziamo parecchio di questa possibilità di discussione e speriamo che ce ne saranno altre quando finisce questo delirio di CM e confinamenti. Assolutamente, no, sono io che ringrazio voi per insomma, per il tempo che ci avete dedicato e anche, insomma, per la precisione che avete avuto nell'esporre queste cose di cui abbiamo parlato. Spero che, appunto, anch'io, che ci sarà occasione di farlo in una maniera che ci è un po' più consona, speriamo presto. E niente, se restate all'ascolto sentite anche l'altro compagno, così chiudiamo il cerchio, diciamo, va bene? Certamente, alla prossima. Un abbraccio, grazie e a prestissimo. Ciao. E allora, quello che abbiamo ascoltato era la prima lunga parte di questa discussione. Noi ci prendiamo una brevissima pausa musicale e poi torniamo con la conclusione. We'll be right back. E allora torniamo in voce per continuare questa presentazione e discussione di Dietro l'Angolo. Ringraziamo anche ascoltatori e ascoltatrici che ci stanno chiamando, e adesso abbiamo in collegamento un altro compagno. Intanto vediamo se è, se ci senti. Pronto? Io vi sento benissimo, spero altrettanto. Noi ti sentiamo perfettamente. Allora, abbiamo appunto, non mi dilungo troppo perché già lo stiamo facendo abbondantemente, abbiamo diciamo parlato, come sai, insomma, di tutta la prima parte di questo libro Dietro l'Angolo, qualche ipotesi su Covid-19 e sul mondo in cui vivremo. La lunga discussione che abbiamo fatto nella prima parte riguardava, diciamo, il corpo iniziale e principale del libro, che era appunto, come ha detto il compagno in chiusura, una sorta di fotografia, diciamo, vista da una fotografia, diverse fotografie, quindi varie angolature per vedere e per capire diciamo quello che stiamo attraversando e che attraverseremo nel breve e medio periodo. E con te volevamo concludere un po' questo ragionamento, perché ovviamente anche per, diciamo, per esigenze così espositive abbiamo un po' diviso in due parti il discorso, e chiaramente quello che non abbiamo affrontato e che vorremmo fare con te è quello diciamo della parte conflittuale, cioè alla luce di tutto quello che ci siamo detti con gli altri, con il compagno e la compagna, sicuramente ci saranno tutta una serie di conflittualità, ci sono già, che insomma dovremmo, di cui insomma dovremmo parlare, che dovremmo, ci troveremo ad affrontare nel breve medio periodo. Quindi io con te partirei da questo, e lo facciamo introducendo un tema che è il tema di un articolo, che è quello della guerra civile. Lo voglio fare perché c'è una questione principale, secondo me, nella narrazione un po' tossica che è stata fatta di questa pandemia, che è proprio un linguaggio di guerra che è stato, diciamo, stentato e utilizzato praticamente ovunque. Cioè, quindi, questa guerra al virus, che insomma da molti punti di vista è abbastanza paradossale come strategia narrativa, ma diciamo dal nostro punto di vista, ma non sicuramente da chi la porta avanti. E quindi ecco, ti cedo proprio la parola su questo, perché c'è un ragionamento interessante proprio che parte dalla questione della guerra civile. Bene, sicuramente salutiamo chi ci ascolta, soprattutto per la pazienza, perché immagino che la discussione sia stata piuttosto lunga, articolata, insomma. Sì, comunque stiamo avendo buoni feedback, quindi vai tranquillo, non ti preoccupare. Bene, bene, vediamo se qualcuno è ancora... ancora ce la fa, vai. Allora, mi occuperei della parte conclusiva di questo opuscolo, partendo da uno dei capitoli di cui mi sono, come dire, occupato personalmente, perché non so se è stata raccontata la compilazione di questo piccolo opuscolo. No, perfetto, quindi ovviamente non perché sia un esperto o uno studioso particolarmente acuto, ma perché a mio parere è un tema piuttosto importante e su cui mi è capitato già di soffermarmi in altre sedi, sempre in scritti d'area, diciamo. Per cui, perché guerra civile? Come dici bene, appunto, la metafora bellica contro il virus è stata una delle cose che ha dominato di più, appunto, i primi resoconti. Quindi, se possiamo usare questa espressione per comodità, durante il primo lockdown, quindi nel periodo che va da marzo a giugno, è stato anche segnalato dai media mainstream che appunto una narrazione anche fuorviante, macista, bellicosa, che poi ha dimostrato tutte le sue, i suoi limiti pratici, perché appunto siamo di nuovo qua. Quello che appunto invece mi sembra il più interessante in questa sede, discuterne appunto con i compagni, non appunto per dettare una linea, ma per aprire delle discussioni, è il concetto di guerra civile, un concetto che a nostro parere è sempre strettamente collegata con appunto le sollevazioni, nel senso che viviamo in tempi in cui, e qui non dobbiamo assolutamente spiegare niente a nessuno, in cui le grandi ideologie che probabilmente per alcuni periodi storici sono riuscite ad avere una presa collettiva e come dire, a determinare anche pratiche e discorsi verso un'emancipazione collettiva, viviamo in tempi dove questo non esiste più per tutta una serie di ragioni di cui appunto noi possiamo come dire, soltanto prendere atto o modestamente analizzare. In questo senso mi sembra che e questa è stata l'urgenza che ci ha come dire, spinto a scrivere qualcosa a riguardo. Per quello che riguarda appunto la guerra civile, soprattutto nella prima fase dell'epidemia, abbiamo, come dire, rintracciato alcuni episodi che hanno, come dire, che alludevano a questo concetto che noi qui usiamo in maniera molto elementare, ovvero intendiamo come guerra civile un conflitto diffuso e anomico, come dire, parzialmente o totalmente fuori controllo dalle strategie, dalle capacità repressive dello Stato. Per cui alcuni episodi, come ad esempio la caccia all'untore, piuttosto che la, la delazione diffusa, ci sembravano alludere o, come dire, potenziali esempi di questa, di questo conflitto che in altre parti del mondo evidentemente è molto più palese ed è molto più, come dire, si è manifestato in maniera molto più anche disastrosa e terrificante. Per cui, e perché parlare di guerra civile? Ovviamente facciamo torto alle ascoltatrici e agli ascoltatori se come dire, facciamo torto alla loro intelligenza se sostenessimo che sia uno scenario desiderabile. Ovviamente no, i rivoluzionari, cioè noi come rivoluzionari dovremmo fare tutto per evitare che si manifesti un contesto di questo tipo. Non credo, ai noi, che ne avremmo le forze, per cui appunto secondo a nostro parere uno scenario di questo tipo è il contesto in cui dovremmo e ci ritroveremmo a muoverci nel futuro, neanche troppo lontano, diciamo. Per cui, per fare un'ulteriore specificazione veramente un po' scolastica e pedante, ma si sa, repetita Juventus, io direi che appunto non è più possibile, come probabilmente in alcune fasi del Novecento, contrapporre il concetto di guerra sociale o rivoluzione al concetto di guerra civile, per metterci al sicuro da degli esiti disastrosi delle sollevazioni, nel senso che non penso che sia, come dire, demonizzando un contesto di questo tipo, quindi di guerra civile, che si possa invece imboccare la solare, cioè, la strada giusta, diciamo, certo. Esatto. Per cui questo appunto, quindi adesso non voglio spoilerare il contenuto dell'articolo, e sarà, come dire, spero che possa essere piacevole andare a leggere le tesi, per poi le tesi lì sostenute, per poi confutarle o ridiscuterle o criticarle, ma insomma a nostro parere, per chi, come dire, maneggia concetti come rivoluzione, insurrezione, momento di rottura, necessariamente si ha il dovere morale di pensare anche che le cose possano andare malissimo, quindi ritrovarci in dei contesti assolutamente favorevoli, dove appunto la violenza non è soltanto quella esercitata dalle minoranze agenti rivoluzionarie, o una violenza emancipatrice, ma in contesti in cui la violenza che trascimerà sarà anche una roba sporca, insomma, certo, devastante dal punto di vista etico e anche totalmente irrazionale, e non riconducibile appunto a obiettivi chiari o precisi. Assolutamente, diciamo questo anche per ricollegarlo un po' a tutto il discorso di prima, ovviamente avendo tratteggiato un orizzonte che non è tra i più rosei, ma questo insomma sfido chiunque a immaginare che il futuro prossimo sarà fantastico e bellissimo per diverse ragioni. Usiamo un po' questo artificio così letterale o retorico, chiamiamolo come ci pare, un po' per tratteggiare poi quelli che sono appunto i possibili conflitti che già ci sono, che erano striscianti, presenti sicuramente da sempre o comunque in maniera più forte negli ultimi 20-25 anni, e soprattutto che, come appunto abbiamo provato a dire, magari subiranno un'accelerazione in questo periodo storico, proprio perché diciamo questo Covid-19 ci ha fatto semplicemente vedere meglio, comunque ha palesato in maniera più diciamo diretta determinate dinamiche. Per cui certo, all'interno di questo ragionamento qui proviamo un po' a esaminare quelli, come è stato fatto poi sia in questo articolo, che un po' pone secondo me un po' le basi teoriche per questo ragionamento, anche quelli che sono stati, no, che quelli che abbiamo visto, poi che abbiamo visto proprio nell'ultimo periodo, quelli che sono stati i conflitti, da dove sono partiti. Dicevamo con gli altri compagni appunto che ci è sembrato di vedere che le principali preoccupazioni, almeno nella prima ondata, e questo riguarda un po' tutta l'Europa, ma forse oserei quasi dire tutto il mondo, riguardano delle preoccupazioni imminentemente economiche, no? Cioè del fatto che la gente è preoccupata di non riuscire ad arrivare alla fine del mese, per dirla in termini semplici. Sì, sicuramente questa è stata, infatti, come dire, non è un caso che il dibattito, come dire, politico e istituzionale si è articolato soprattutto attorno all'erogazione di un welfare che ormai da anni era in atto di smantellamento, e questo mi sembra significativo. Tuttavia, un'altra delle cose palesi e lampanti agli occhi di tutti è che finalmente o per necessità materiali si è messa tutta la lente di ingrandimento anche il sistema sanitario, per cui è stato lampante che la ridefinizione dei dispositivi sanitari di uno stato a capitalismo avanzato come l'Italia fossero in realtà rimaste, o come dire, i rimaneggiamenti che il sistema sanitario ha subito fossero e siano attualmente piuttosto problematiche e non di certo all'altezza della situazione. Quindi sicuramente ci si può aspettare dei grossi fermenti all'interno della popolazione che vive fasi di proletarizzazione abbastanza a tutto campo, ma quello che a nostro parere è stato anche interessante sono state quei bagliori di proteste piuttosto che di così sommovimenti che hanno caratterizzato tutta la come dire sanità pubblica. Un altro indubitabile punto attraverso cui sicuramente succederà qualcosa, e già parzialmente succede, è indubbiamente l'istruzione, quindi la scuola. Certo. Guarda caso sono proprio quelle, come dire, tutti quei settori che anche come dire una sensibilità non rivoluzionaria vede come critici, e appunto per sostenere quanto detto finora, questa pandemia ha semplicemente portato, come dire, i nodi al pettine di problemi che hanno una storia ben più lunga. Quello che appunto secondo noi è da sottolineare è che tutti questi ed è l'ennesima banalità di base che si troverà nel nostro piccolo opuscolo, è che ad ogni buon conto non sarà di certo una spinta rivoluzionaria verso la libertà o verso l'autonomia o verso l'autodeterminazione che caratterizzerà i momenti di rottura nel passato, nel futuro prossimo, ma saranno appunto lotte parziali, molto specifiche, in cui appunto bisognerà saper rizzare le antenne e capire dove potranno portare, perché comunque a nostro parere, cioè, come dire, siamo proprio in un punto, nel famoso punto ic rodus ic salta, in cui si potranno e si dovranno decidere delle questioni fondamentali, non solo appunto per le minoranze rivoluzionarie, ma per strati e fette di popolazione piuttosto ampia. Diciamo così, così io la leggo un po' così, una sorta di riarticolazione tra la sfera della necessità e la sfera della libertà. Sfera della necessità, quindi problemi appunto di ordine molto materiale che con tutta probabilità ci troveremo ad affrontare, appunto, che già affrontiamo da diverso tempo, ma che ci troveremo ad affrontare come fenomeni di massa. Tu hai citato l'istruzione e la sanità, che sono due temi, macro temi fondamentali in questo momento. Abbiamo parlato di questioni legate al lavoro, questioni legate al welfare, all'accessibilità e all'accesso a tutta una serie di servizi, e sicuramente intorno a questi temi sono già sorti anche in altre parti del mondo, anche prima della pandemia, stanno sorgendo e continueranno a sorgere le conflittualità più importanti, crediamo, diciamo, senza voler parlare con la palla di vetro in mano. Sì, sicuramente quelle più quelle più strutturate e che richiederanno dei ragionamenti a lungo medio periodo, perché poi un altro dei fenomeni che ancora quando scrivevamo questo opuscolo non avevamo visto sono invece queste esplosioni di rabbia, che appunto non sono chiaramente un fine per cioè sappiamo tutti che non che in sé non hanno dei significati emancipatori, o che non indicano nessuna strada percorribile per una autonomia dal sistema di organizzazione capitalista. Tuttavia sono un sintomo di quello che bolle in pentola e che appunto a nostro modesto parere sono interessanti, perché necessariamente implicano quel grado di distruzione che volenti o nolenti dovremmo, per quanto doloroso e faticoso e difficile, dovremmo attraversare come rivoluzionari per appunto provare a dare una scossa all'organizzazione sociale, alla presente organizzazione sociale. Per cui appunto lungi dal fare un piano quinquennale ma anche appunto se non farci prendere dall'entusiasmo per lo spontaneismo più più distruttivo, certo. Sappiamo che appunto per quanto detto finora, cioè un generale impoverimento e una generale insofferenza, sappiamo che se da una parte avrà dei temi molto specifici e importanti come appunto sanità, istruzione, welfare, dall'altra parte non saranno da escludere in egual maniera delle vere e proprie sommosse con dei motivi scatenati molto banali, come da sempre è stato nella storia, appunto tutti gli studiosi dei movimenti sociali non possono che registrare la banalità molto spesso delle cause delle più importanti sollevazioni di massa nella storia. Per cui appunto lungi dal voler fare gli schizzinosi o dal poterlo fare, dovremmo necessariamente confrontarci con questo tipo di sommovimenti che per molti di noi, adesso non voglio essere caricaturale, però sono totalmente, molto spesso sono fuori dai radar, perché appunto molti compagni rivoluzionari non considererebbero mai di doversi occupare di sanità pubblica piuttosto che di scuola. A mio parere, a parte la questione etica di doverlo fare e accantonando quella strategica, secondo me non ci sarà molto da scegliere. Questi saranno i punti in cui intervenire per questioni di massa. Assolutamente. Ovviamente scusami, vai. Sì, solo una cosa, per anche qui probabilmente farò torto all'intelligenza, però non sto contrapponendo questo all'intervento specifico del gruppo rivoluzionario che decide di intervenire nel conflitto sociale come e quando crede, questo è ovvio. È ovvio che non contrapponga né una cosa escluda l'altra. Quello che appunto nell'ottica di una di uno sguardo d'insieme più ampio, a nostro parere sono questi i temi su cui potranno e dovremo stare un po' attenti per appunto cogliere anche i frutti di questa esperienza di massa che ha scompaginato le strutture di pensiero e di prassi in quest'anno, ecco. Assolutamente, diciamo che farsi la questione annosa di farsi trovare pronti al posto giusto nel momento giusto in questo momento torna con una forza abbastanza importante, ecco, questo sicuramente ce lo possiamo dire senza rischiare, insomma, di fare troppe previsioni. Senti, per chiudere, c'è un articolo, cioè che è proprio l'articolo finale, che si intitola così, Un'altra vita. A me ha colpito molto nel periodo, appunto, soprattutto quello, come dicevi giustamente tu, ormai dobbiamo rifarci a una narrazione anche un po' tossica, del primo lockdown. Ha colpito molto la narrazione fatta un po' a destra e a manca sul fatto, su un tema specifico, che è quello della vita, fatta in questo modo. Praticamente quello che ci hanno detto in maniera anche abbastanza diretta e forte è che dobbiamo imparare e abituarci a vivere in modo diverso, cioè dobbiamo cambiare, cioè, no, c'erano questi bellissimi interventi in televisione di cui tutti, insomma, abbiamo avuto questa esperienza di massa veramente incredibile, in cui aspettavamo il governante di turno che ci diceva cosa potevamo fare o non fare il giorno dopo, cioè esperienza, non sto qui entrando nel merito ovviamente, dico solo che sicuramente è un'esperienza caratteristica, a me non mi era mai capitato e credo che a molti di noi e a molte di noi nemmeno, però esponevano con forza un concetto che di fatto è stato anche un nostro mantra per molto tempo, ovvero che per cambiare le condizioni politiche, sociali, esistenziali del mondo intero bisognava in qualche modo avere un altro stile di vita, un'altra forma di vita, no? Ne abbiamo parlato fino al insomma proprio a romperci la testa di questo, detto ovviamente da chi insomma invece aveva tutti diciamo interessi un po' opposti e un po' faceva strano, ecco. Io chiuderei, vorrei chiudere un po' su questa questione qui, perché come insomma abbiamo provato a tratteggiare la questione della vita quotidiana, la questione della nostra esistenza, di come conduciamo la nostra esistenza, ritorna anche, è un qualcosa che ritorna con una forza inedita, diciamo. Certo, sì, potremmo dire, cioè dobbiamo avere l'onestà di dire che a riguardo siamo molto indietro, perché sui passaggi necessari ad una reale autonomia dall'organizzazione sociale, dalla presente organizzazione sociale, direi che non ce ne vuoi. Ma noi siamo in braghe di tela. Registro un'ulteriore e inquietante situazione o ipotesi di lavoro, che comunque anche noi cosiddetti rivoluzionari o con una sensibilità appunto rivoluzionaria, comunque il gioco cioè sarà molto difficile, e lo stiamo provando sulle nostre vite, provare, cioè come dire, non desiderare più come dire, le garanzie che il capitalismo ci garantisce. Che cosa voglio dire? Immagino, e questo è veramente difficile da ammettere, dovremmo farla a denti stretti, che tutti noi non vediamo l'ora di poter tornare, che ne so, a viaggiare con i voli low cost, a poter andare a muoverci liberamente da una parte all'altra del pianeta, fare l'aperitivo esatto, consumare tutto ciò di cui abbiamo voglia, e quindi insomma io, per essere onesto, non mi posso sottrarre a questa, come dire, a questo desiderio. Assolutamente, per cui vuol sì, dire sì. Che la strada che dobbiamo compiere individualmente e collettivamente è ben lunga, perché sembra che anche le possibilità, come dire, rivoluzionarie d'azione in tutta una serie di ambiti comunque siano legate e traggano linfa da un'organizzazione sociale che appunto al momento del suo sovvertimento non potrebbe più garantire perfino una libertà d'azione, come dire. Per certo. Cui appunto il progetto di emancipazione dal capitalismo non può far altro che come dire, doversi misurare in un momento che non è solo distruttivo ma è anche autodistruttivo, cioè in ogni momento di emancipazione. Domani sono aperti. Arrivo. Scusate, sono non, ti non ti preoccupare, è il bello della diretta. Esatto. sei? Allora, un attimino che scusa. Abbiamo un'interruzione breve. Mi sentite? Sì, vai. Eccoci, quindi chiudiamo così, così appunto non immaginiamo, cioè non tediamo ulteriormente gli ascoltatori. Ad ogni buon conto, quello che si diceva è che appunto è sacrosanto dire che questa occasione di ridisegnare radicalmente gran parte della nostra vita è appetitosa, perché sembra che appunto tutta una serie di questioni, cioè la normalità che conoscevamo, sta venendo effettivamente messa un po' alla berlina. D'altra parte il processo che richiederà una trasformazione radicale sarà, cioè, al momento quasi inimmaginabile. Esatto, no, sono abbastanza d'accordo. Tra l'altro, così proprio per chiudere davvero, concordo pienamente con quello che dicevi, cioè che dobbiamo effettivamente misurarci in maniera un po' diversa con tutta una serie di problemi, soprattutto noi, insomma, che abbiamo fatto della nostra, abbiamo provato a fare quantomeno della nostra vita, diciamo almeno in parte, una critica alla vita che ci veniva più o meno imposta da terzi. La questione è che, oltre a tutte, diciamo, queste problematiche che abbiamo visto, questa pandemia ha fatto emergere anche dei nostri limiti, come giustamente dicevi tu, e anche i limiti forse di una critica magari è stata anche molto minuziosa, molto particolareggiata in alcuni periodi, in alcuni contesti, però poi non è riuscita a farsi carico in maniera totale e definitiva di tante parole d'ordine che abbiamo sempre portato avanti, come quella che dicevi tu, l'autonomia, l'autodeterminazione, l'autogestione, il fatto di poter portare avanti da sole le nostre vite. Ecco, è cascata la linea. In un momento del genere, dicevo, è sicuramente difficile far finta che queste problematiche queste criticità non ci siano. È cascata la linea, quindi non posso fare i saluti con il compagno in diretta, lo farò a microfoni spenti. Su questo abbiamo davvero concluso.